Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Anipotina! Sì, lo vedi che daia, qualche cosa di delicato lo fanno pure loro. Gagliardo, come le favole a colori. E deve essere una specie di cappuccetto rosso. Sì. Eh sì, lo vedi. Sarà la storia di una nipotina che è rimasta orfana. Va a vivere col nonno e il vecchietto se la porta a casa col suo cagnolino. Bobby. Mi fai male, nonnino? Sì. La comoda, vengo. No, Ermi. Ermi, non fa così. Non è niente, Ermi. Portamela fuori. Fuori. Cesina, sedia. Che è successo? All'aria, bersaglieri, portamela fuori. Ecco, mette d'acqua. Ecco, mettemela qui. Così. Posata giù, piano. Giù. Ermi, piano, non avete paura. Venite. Ma sta meglio. È stato un corpo, ma non è niente. Grazie, che sta meglio già. Grazie. Dov'eri? Hai visto, Ermi? T'hanno portato fuori i bersaglieri, Ermi. Diceva una favoletta a colori. Invece di mortacci loro e dei stizzozzi. Ci sono delle scene impressionanti. E su, impressionanti. Ammazza, altro che impressionanti. Allora ce lo sconsiglia. Lo sconsiglio. Ma non lo deve vedere nessuno sto zozzo di figlio. Ma andiamo, non esageri, sì. Scherziamo. Ma come si permette? Ma chi sei tu? Il direttore del locale. A me che me frega a me. E non dategli retta, no. È un film come tutti quanti gli altri. Romantico, sentimentale. Ammazza, eravamo appena entrati. Aveva dato il primo mozzico allo sfilatino. Che già il nonno si era ingroppato alla nipotina. Sentimentale, dico. Ma avevi sentito? Sentimentale. Sì, ma quegli spinti mi piacciono. È un film del 76, Il comune senso del pudore. Però ci serve per introdurre l'argomento di oggi e contestualizzare comunque quella che è la riflessione che proponiamo al nostro pubblico. Giacinto e Erminia sono una coppia semplicissima di romani, devono festeggiare, mi sembra ricordare, l'anniversario di matrimonio, fanno una giornata non di lavoro e vanno al cinema e lo porta a vedere la moglie è Rossana Di Lorenzo, la classica moglie di Alberto Sordi, chiattona, popolana, al di sopra di ogni pensiero di abuso o d'uso di grazia femminile per scopo seduzione. Vanno a vedere sto film La nipotina, le tira fuori due sfilatini con la cotoletta, si mette a mangiarli, ma il film La nipotina in realtà è una di quelle pellicole porno soft che giravano negli anni 70, perché è libero accesso, e nonno naturalmente, come dice Alberto Sordi, si ingroppa alla nipotina. Alcune notazioni di costume. Nel 76 a vedere film del genere non andavano soltanto i bersaglieri in libera uscita, che sono quelli che porteranno fuori Erminia svenuta per lo shock, non se l'immaginava che la tenera nipotina poi in realtà fosse una pornoattrice, ma ci andavano normalissime coppie, perché gli altri alla biglietteria del cinema sono signore e signore, domandano: ma davvero è un film scabroso? Il direttore del cinema lo difende? E soprattutto, ma vi immaginate oggi se fosse mai possibile fare un film in cui ci siano scene di sesso esplicito fra un nonno e una nipotina? Ma metterebbero le catene e chiuderebbero in prigione tutti, spettatori, operatore, regista, e chiuderebbe, sarebbe cementificato quel cinema. Quindi negli anni 70 ancora il senso della trasgressione era in una zona abbastanza limacciosa, in cui non si capiva bene da che parte si andasse. Perché? Perché i due popolani ancora non hanno capito che esisteva questa rappresentazione esplicita della sessualità, che esistevano queste variazioni serpeggianti della sessualità. Nemmeno immaginavano ci fosse dei cinema in cui si vedesse qualcosa che non fosse soltanto un tenero idillio tra nonni e nipotine. Infatti l'esito che ne esce fuori, la morale di questo tipo. Hai visto stasera quanta gente, che gente che c'era al Cinema Fiamma? Tutti guardavano con interesse il film, l'unica che se n'è andata sei tu. Perché? Perché era zozzo, io quelle zozzerie non le voglio vedere. E questa è una risposta. Per te era zozzo perché tu sei un ingenua, ma sei pure ignorante. Vedi, Erminia, ci sono delle donne che la sera, quando vanno a letto, si mettono le calze nere. Perché? Perché? E perché bisogna cercare di capire perché. Anche la vita coniugale ha subito una trasformazione. Il rapporto uomo e donna non è più quello di una volta, è cambiato. Ecco perché fanno sti film. Per insegnare a quelli che non lo sanno che cosa devono fare per avere, che ne so, nuove emozioni e magari più soddisfazioni. Ah, sì. Sono 25 anni che siamo sposati. Ci avevamo tre figli, belli, sani. Siamo sempre andati d'accordo, ci siamo sempre voluti bene. Adesso tutto a un tratto mi dici che non ti do più soddisfazione? E film terminerà che in una affocata nottata estiva con sotto la gente che chiama, che urla, spengono la luce e lei chiede al marito: me devo mettere le calzette? Perché? Perché aveva capito che i tempi erano cambiati, doveva adeguarsi, c'era un modello che andava raggiunto, perché quello che per lei era comunque il senso del pudore andava alzata, di cui andava alzata l'asticella. 800 24 00 24, oggi parleremo di quello che è per voi la percezione attuale. Oggi non ci sono più dei film de sé in cui vanno gli intellettuali, che dicono questa gente volgare quando sviene la signora con la cotoletta in mano, ma oggi la pornografia è alla portata di tutti, ma chi se ne importa più? Nemmeno più è pornografica, la pornografia è noiosa secondo me, però comunque ormai esiste un modello che per molti è un modello irraggiungibile e questo crea dei problemi. Come vi sentite nel rapporto con l'esplicitazione ormai sdoganata di ogni attività sessuale, erotica, armamentari vari e posizioni varie e assimilanti possibilità di accoppiarsi in maniera varia, e poi quella che è la vostra prassi quotidiana, la vostra vita, le persone frequentate, i vostri pensieri, insomma, vi ha cambiato veramente l'esplicitazione? È stato un passo avanti, o se no altrimenti vi siete persi le sole cose per cui valeva la pena di vivere, che era il senso di colpa, il senso di pudore, il senso del peccato? 800 24 00 24, tra un istante. Melog, cronache meridiane. Lo sai, Anastasia, potrei stare qui a fissarti tutto il giorno mentre ti pieghi e ti adagi sul biliardo. Sta cercando di distrarmi, il bastardo. Si toglie il maglioncino color crema e lo getta sullo schienale di una sedia. Si piega sul tavolo. La bocca mi si secca. Capisco quello che voleva dire. Lui mette in buca 4 palle piene. Un errore banale, Mr. Grey. Lo prendo in giro. Oh, Misty. E siamo arrivati alla contemporaneità. Mettersi in bocca 4 palle piene. Una cosa che sembra far parte del funambulismo da circo equestre, ma comunque quello su cui stanno sognando fantamigliaia di donne in tutto il mondo. Siamo arrivati alle sfumature di nero, dopo il grigio, il rosso e via dicendo. La storia è sempre quella. Un raffinatissimo, cazzutissimo, ricchissimo, bellissimo, elicotteratissimo signore che si diverte a dare scudisciate le natiche a una signora che non chiede di meglio che si gli scudiscino le natiche, però nel contorno comunque fatto di lusso, di splendore, di bellezza. Quante persone avranno cercato di ricostruire, come la moglie di Alberto Sordi, mettendosi le calzette nelle sue gambone abbastanza grassocce, grassone anzi molto, ma non questo ad essere denigratorio, comunque hanno riportato nel loro tristanzuolo e desolato talamo coniugale la scudisciata, la bendina, le manette dell'amore con il peluche rosa e via dicendo. Insomma, i tempi sono cambiati, ma lo stimolo comunque è quello. Ecco, cosa è successo nel divario che andava fra le calzette della moglie di Alberto Sordi e la signora va a comprare le manette con il peluche rosa nel nostro paese? È cambiato veramente qualcosa? Lo domando subito a Massimo Arcangeli. Buongiorno, professore. Buongiorno. Linguista, critico letterario, sociologo della comunicazione, ordinario di linguistica italiana all'Università di Cagliari. Insieme a Osvaldo Duilio Rossi è autore del libro Il fronte del porno, il sesso occidentale, cultura, lingua, rappresentazione dell'eros dagli albori di internet di Franco Angeli. Abbiamo fatto due esempi. In realtà dentro sembra che passi non soltanto qualche decennio, ma un'epoca geologica. Lei pensa che in realtà è cambiato qualcosa nella percezione, soprattutto nel maneggiare gli strumenti della sessualità nel nostro paese? Allora, innanzitutto abbiamo svuotato il corpo, perché proprio la presenza fisica di un corpo è molto probabilmente l'unica grande assenza nel consumo, ecco, di questo possiamo parlare, della sessualità contemporanea. È un paradosso, ma è così, perché abbiamo svuotato il corpo e abbiamo riempito di altro quello che oggi possiamo considerare sessualità o pornografia. Qualunque termine possiamo usare non si adatta, proprio perché ormai tutti i confini sono caduti. Che cosa vuol dire che abbiamo svuotato il corpo? Vuol dire che ormai la sessualità è esibizione o è per lo più esibizione, il sesso è apparenza, il fatto stesso che monti sempre più in rete potrebbe esserne la conferma, ma l'altra cosa più interessante che può segnare la diversità rispetto a 20 o 30 anni fa e che potrebbe anche essere rappresentata intanto dal montare del politicamente corretto, no? Perché a un certo punto se la sessualità si svuota da una parte perché c'è magari una controspinta, quindi c'è anche il bisogno di recuperare in trasgressione quel che però corretto non fa fare. Professore, mi dà atto che è in una fase di eclissi il politicamente corretto, oggi viene detto come un insulto, tu buonista, io che sono sempre stato considerato uno zozzo infame, mi dicono tu buonista, sempre i soliti radical chic politicamente corretti, solo perché magari non bestemmio o non insulto le persone, ecco, perché mi è normale. È cambiata un po' anche la percezione, sì, diciamo, del politicamente corretto. Sì, sì. Perché c'è una reazione, no? Il fatto stesso che alcuni fenomeni, soprattutto degli ultimi anni, possono essere considerati, e lo sono sempre stati per alcuni aspetti, no? per chi ci ha riflettuto su, fenomeni di reazione politicamente corretto, questo investe l'Europa, ma anche gli Stati Uniti, anche altri paesi, quindi c'è anche il senso di una reazione politicamente corretto, per cui se io non voglio più essere politicamente corretto e cedo, magari proprio in quella manifestazione del sesso che può passare anche per il linguaggio osceno. Visto, Paolo, faccio un esempio, professor Arcangelo, oggi l'area più detestabile del social networking è definire il termine pastorizia. I gruppi che inneggiano la pastorizia sono quelli che poi fanno operazioni di massacro verso le persone, mettono le foto delle donne in cui sono stati, filmati osceni, portano le persone al suicidio. È paradossale, ma c'è un ritorno proprio a qualcosa di basico. La pastorizia è quale? Il pastore che si ingroppa le pecore, che alla fine è il punto zero di ogni umana elaborazione del concetto di sessualità. Sì, ma c'è una deriva ulteriore, cioè il fatto che la sessualità adesso non è più soltanto una modalità competitiva, è diventata una modalità sproporzionata per chi detiene un potere e chi non lo detiene allo stesso modo, per cui il fatto stesso, no, che ci siano sempre più fenomeni che possono essere assimilabili allo schiavismo sessuale di secoli e secoli fa lo testimoniano. Quindi il rapporto non è più ovviamente quello che si citava prima, no, tra un nonno e una bambina, magari, perché ovvio in questo caso lo stigma sarebbe immediato, però comunque. Però allora non esisteva, negli anni 70 non c'era questa percezione dell'orrore di un atto di violenza nei confronti di un minorenne. Come mai allora non si pensava che fosse sbagliato? Perché? Perché ormai l'eticamente corretto sembra essere diventato il nostro pane quotidiano e talvolta anche per cose di molto minore entità noi possiamo essere additati, no? Perché ormai qualunque cosa facciamo o diciamo, se non in linea con quella che è la percezione di una morale comune, che poi bisognerebbe capire esattamente di che cosa stiamo parlando, può montare a un punto tale che magari le reazioni sono molto superiori all'intenzione che avevamo di poter esprimere magari un pensiero. Io vorrei chiedere a chi ci sta ascoltando in questo momento, forse si sta orientando rispetto a quello che diciamo, noi vogliamo sapere esattamente come percepite questa sorta di grosso divario, di questo sfalsamento totale fra l'estrema rappresentazione in cui tutto è rappresentabile, tutto è dicibile, tutto è fruibile, figuriamoci, ma penso sia un passo avanti, alla fine dovremmo andarci a raschiare i muri per immaginare cosa ci possa essere al di là di quelli che ci hanno dato come i limiti del lecito. Ma questo ha migliorato la vostra vita, ha dato a voi una maggiore soddisfazione e felicità, vivete con maggiore senso di leggerezza quello che la nostra cultura ci ha messo a disposizione per uscire da quella sorta di condanna del coitus citus, l'accoppiamento dura 30 secondi e poi ognuno a casa sua, che in realtà la legge natura quello dice, la natura non c'è altro, ci si accoppia solamente per fare i figli, poi culturalmente abbiamo dato un altro valore. 800240024, Nadia Busato, buongiorno. Buongiorno. Allora, Nadia Busato è l'altro versante della domanda che faccio. Nadia Busato è una scrittrice, una giornalista, ha un'infinità di interessi, ma se volessi radicalizzare e sintetizzare il suo ruolo per questa chiamata e questa trasmissione, è una scrittrice erotica. L'ultimo libro è Gioca con me, una storia erotica, dove leggo un distico che è rappresentativo: avere la vagina è un dono, condividere nel piacere è un diritto e conoscerla è potere. Lei, Landi Abusato, è d'accordo che in realtà questo salto in avanti, questa fantastica giostra in cui tutti possono salire, non abbia poi dato i risultati che si sperava nel piacere? Lei dice la vagina è un dono, è bello riempirla e via dicendo, ma nel suo libro parla di cose fantastiche che in realtà soltanto un numero eletto e indefinibili donne ha realmente provato. Non mi sembra che il genere maschile sia così attivo. I Mr. Grey si trovano soltanto nei romanzi delle signore che parlano d'amore o di sesso. Fammi dire che questo romanzo è proprio l'anti-Mr. Grey, nel senso che nelle 50 sfumature di grigio assistiamo a una coppia che è tutto tranne che una coppia intima. Ogni volta che Anastasia cerca di parlare con quest'uomo che insomma le piace, vorrebbe anche conoscere, lui oppone un giochino di ruolo dove lui comanda, lei è sottomessa, la picchia, il dolore, il piacere, il sesso. Beh, oddio, cercare dialogo con uno che si presenta col frustino in mano, mi sembra già, ne vogliono un po' troppe queste signore, o uno o l'altro. Ecco, conosciamo molto meglio le erezioni che le emozioni, ecco, diciamola così. Vabbè, quello è, non è che si può aver tutto dalla vita. Mentre invece quello che volevo raccontare io è proprio una donna che, diciamolo subito, è una donna da sola, è una persona che è incompetente a livello relazionale, ma che riesce con uomini che rispetta e a cui vuole anche bene ad avere una sessualità molto in confidenza, molto intima, basata proprio sul gioco, quindi il piacere di stare insieme, che è un po' quello che diceva il professore, cioè l'abuso e la disponibilità di una pornografia molto facile, quello che ci sottrae è proprio il senso del divertimento, poi del flirt, della seduzione, dello stare insieme. Insieme, quando la moglie dice mi devo mettere le calze nere, è già caduto tutto, ovviamente, perché non ti stai divertendo, lo stai facendo perché te l'ha detto qualcuno, perché devo, perché magari così ci mettiamo un po' di pepe. Sono un po' i consigli dei giornali, no? Come fare a rinfocolare la coppia con i consigli pratici. Certo, è il manuale. Ieri abbiamo avuto un esperto, un guru, l'insigne professor Taramasco che passa la sua vita... fantastico! L'IDS, l'ingegneria della seduzione. Non può non conoscerlo anche Nadia Abusato, perché ormai è diventato un punto di riferimento. Perché? Perché da una parte c'è la manualistica, da una parte c'è la fredda trattatistica, ci sono poi via intermedia, le signore e i signori che rispondono ai giornali femminili e danno i consigli, i consiglieri. Poi ci sono un po' di ragazzine scafate, fanno i programmini magari su Sky, dove è tanto carino spiegare e stupire con la propria intrepida maniera di maneggiare gli ordigni almeno simbolici della sessualità. E poi c'è niente, basta, andate a vedere i tutorial su internet, perché alla fine, se c'è una moltiplicazione di categorie, come appunto dice il professor Arcangeli nel suo libro, che alla fine io devo prima perdere tempo a studiarmi quali sono le categorie dell'Eros, quando le ho studiate tutte capire quella che mi piace di più, e intanto mi è già passata la voglia. 800240024, riflettete e date un contributo rispetto alla vostra esperienza anche su questo. Tra un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Vaccini, il decreto della discordia. È giusto obbligare alla vaccinazione? È giusto escludere dalle scuole i bambini che non sono coperti? Il viaggio di Radio 24 all'interno del dibattito che divide le famiglie. Tutte le mattine alle 7 e sabato il reportage alle 7:15 su Radio 24 e su radio24.it. Melog, cronache meridiane. Christian mi passa una stecca e qualche pezzo di gesso. Vuoi spaccare? Ok. Passo il gesso sulla punta della stecca e soffio via quello in eccesso. Mi allineo con la palla bianca e con un colpo veloce e secco colpisco al centro del triangolo in cui sono state disposte le altre, con una tale forza che una di quelle rigate finisce nella buca d'angolo a destra. Scelgo quelle rigate. Prego. Io procedo, mettendo in buca altre tre palle. Manco la palla rigata verde per un soffio. Non ve lo dico come va a finire, mi viene già da ridere. Ma i birilli dove stanno nel frattempo? Solo per capire dove vengono messi. Beh, questo è il nuovo gioco della signora Anastasia con il suo maestro di biliardo nel terzo romanzo di L. James, le sfumature, 50 sfumature di nero. Quando arriveremo alle sfumature di marrone non potremo più sentirne parlare. Comunque, di erotismo raffinato, di rapporto e dominazione, basta, non ne possiamo più. Ma uno che è stato educato che le donne non si toccano nemmeno con un fiore, ma come può pensare che una dice picchiami, menami, prendimi a frustate, legami, fammi del male, usami come la buca del tuo tavolo da biliardo? Non lo so, ma la mia è una mentalità del tutto arretrata. Marco probabilmente sa dirmene di più. Marco, buongiorno. Pronto? Sì, l'ascolto. Ecco, niente, io volevo un pochettino, innanzitutto buongiorno. Buongiorno. Portare un attimino la mia testimonianza. Che non è niente, ma dà un po' il quadro della situazione. Cioè, io posso dire di essere stato e sono tuttora un cosiddetto porno dipendente. Ma è una patologia, cioè si sta facendo curare, lo vede come un aspetto patologico e semplicemente uno... Sono arrivato a pensare, a capire che è una patologia che va curata. Ecco, ma quali sono, oltre quale limite uno si reputa porno dipendente? Uno può essere un po' attizzato. Porno dipendenza è quando tu sei davanti a un monitor e guardi una marea di pornografia che ti porta poi... Sì, ma è questione di tempo, perché davanti a monitor guardare pornografia l'Italia sarebbe tutta porno dipendente. No, ma il problema è proprio questo, che il tempo si trova, ormai si sta chiusi in sì, casa. Sì, ma quanto tempo ci stava lei o ci sta? Parecchie ore. Purtroppo la pornodipendenza, quando ci si mette davanti a un monitor con dei porno... Film. Con dei film, diventa una cosa compulsiva. Si continua ad andare avanti fino all'esasperazione. Addirittura l'orgasmo e la liberazione. Ma non può vengono le vesciche alle mani, scusi, non viene voglia di andare... No, ma ne vengono anche dall'altra parte le vesciche. Eh beh, ci vorrei, certo, è ancora più delicato, è logico. No. Sì, ma perché farsi del male? Uno può anche... Il problema qual è? Che non si trova, diciamo, delle persone con cui condividere questi momenti? Assolutamente, guardi, a me di donne non me ne mancano. E allora? Non è la questione che manca la donna, anzi, le donne non mi mancano, ne ho, grazie a Dio, sono sempre stato fortunato. Però lei comunque l'alternativa vescicante la trova più attraente, ma perché? No, questo è un problema serio, No, purtroppo milioni di persone sono e soprattutto moltissimi giovani oggi. Ma equivalente all'alcolismo, alla dipendenza, alla sostanza? È una dipendenza a tutti gli effetti. E tra virgolette è un qualcosa che, siccome è un po' torbida questa cosa da parlarne, non ne viene fuori, la gente non ne parla. Colpisce anche parecchie donne, ma soprattutto in stragrande maggioranza sono uomini. Ma il problema è che sono i giovani oggi che ne vengono colpiti da questa cosa. Mi faccia capire, lei ha la percezione che è una cosa che alla fine le fa più male che bene? Oppure dice in fondo... Fa più male che bene, assolutamente, perché si arriva a un livello dove... si capisce che ti fa male quando ti porta ad avere dei problemi nello svolgimento della vita quotidiana, perché se tu stai davanti a un monitor 4 ore, 5 ore durante una notte, il giorno dopo non puoi essere brillante. Eh beh, certo, chiaro, uno c'ha sonno il giorno dopo, sì. E questa è una cosa che poi si ripete sempre. Cioè, se io le faccio un esempio, quando io ho preso in mano il primo porno, avevo 16 anni, 15 anni, se vado ancora addirittura indietro si parla del classico postal market. Ma lei quanti anni ha adesso? 49. Quindi un uomo nel pieno della sua vita, non è né un ragazzino né... No, ma queste cose ti devastano anche i matrimoni, perché una donna quando viene a scoprire che tu ti guardi un porno si sente tradita, giustamente, ma non è un tradimento... È una patologia questa, diventa patologia. Non bisogna confondere il fatto che io mi metto davanti a un video, mi guardo un porno e non va bene, ci sta. Il discorso è quando diventa patologico, diventa una cosa di cui non ne puoi più fare a meno. E chissà quanti uomini che mi stanno ascoltando adesso capiscono quello che voglio dire. Per questo che io ci tenevo a dirlo. No, ha fatto bene. Ma esiste una maniera, diciamo, per... trovare il modo di contenere, di gestire questa cosa. Per venire a capo di questa cosa, purtroppo c'è una cosa di base. Innanzitutto si sceglie di essere così. Alla fine non ci sono delle motivazioni, ci sono delle diciamo qualcosa che ti può portare a essere così più facilmente, diciamo così. Ma cos'è, una delusione? Uno alla fine si trova deluso? No, lì il discorso si fa molto ampio. Però dare delle scusanti è il modo più sbagliato per venirne fuori. Alla fine è una scelta. io scelgo, mi piace, è un piacere, lo scelgo. E questo piacere però alla fine, abusandone, porta a delle conseguenze gravi, molto gravi. Vabbè, certo, perché la sessualità poi viene sconvolta. Allora, fermiamoci un attimo, no, è interessante. Paolo, sento anche Paolo, poi sentiamo il nostro... Paolo, velocemente. Salve, buongiorno. Sì. Niente, io condividevo appunto la vostra telefonata, questo ventaglio di giochi che stanno facendo in tutto il settore della trasgressione, del sesso. Ma anche lei è un pornodipendente? No, io lavoro nel settore del sadomaso, quindi... Ma lavora in che senso? Opera, ci si diverte oppure è un professionista? Costruisco attrezzi, organizzo feste... Costruisce attrezzi, cioè un artigiano? E che attrezzistica costruisce lei? Da ricostruzione degli attrezzi di tortura del Medioevo a roba molto più moderna. Ma lei è un arredatore di dungeon, facciamo qui? Diciamo sì, esattamente. Vabbè, mestiere come un altro, mica... Quindi lei la chiama e dice: mi organizzi questo stanzino, ci metti una gogna, 5-6 paletti, così. Un po' più sofisticate, insomma. E qual è la cosa più... E faccia un esempio di cosa sofisticata. Ma ci sono delle stack machine, per esempio, delle macchine che... C'è? Simulano meccanicamente... Ah, c'è, esatto, ho capito. Come fosse una trivella per l'asfalto, ma in realtà... Diciamo così, ma abbia capito. Visto in contesto più diverso. E quindi ecco, prende il motore elettrico, prende le pulegge, costruisce questo attrezzo? Sì, ci sono del core di sotto, le assemblo con gli attrezzi miei. Sì, ma non c'è un livello di sicurezza, perché se poi parte e prende il via... Sì, infatti io prendo solo attrezzi... Cioè, pericoloso quanto una motosega, se uno... Vabbè, abbiamo capito. Fermi là, fermatevi un secondo tutti e due. Allora, ritorniamo a Massimo Arcangeli. Abbiamo toccato, ricordo, autore, assieme a Osvaldo Duilio Rossi, Di fronte del porno, il sesso occidentale. Ecco, queste testimonianze di due persone che rappresentano la punta più estrema. Però non è la media generale che poi indica delle mutazioni. Lei nel suo libro fa un'interessante classificazione di quelle che sono le categorie di YouPorn, che hanno cambiato completamente la percezione e anche la ricerca dell'esperienza e dell'emozione sessuale. Ci dà un'idea quali sono i criteri per cui vengono create queste categorie, che ormai le conosciamo tutte, non le sto a elencare qui perché la gente sta affettando la cipolla per fare il soffritto, però è abbastanza possibile forse elaborarle in maniera metaforica. Ma c'è un'esplosione di tutto in ogni campo, quindi sono gli utenti stessi che alimentano la nascita di sempre nuove categorie. Già la lista che abbiamo allestito qualche mese fa, che era più o meno aggiornata, adesso non sarebbe da aggiornare di nuovo. Quindi sono categorie che montano perché il limite viene, si pensa, che debba essere di volta in volta superato, per cui si moltiplicano anche all'interno di una fascia, quale può essere quella delle dominazioni. Tutte le possibilità esperibili nel campo della dominazione se ne aggiungono altre. È un fenomeno che non ha freno, ma è ovvio che non è così. Che non... Quindi c'è una freno, moltiplicazione perché... di sottocategorie. Io ho scoperto ieri, mi volevo documentare per questa trasmissione, che esiste una nuova categoria che è il Bollywood porno. Cioè attori come quelli di Bollywood uguali, che in realtà invece di fare i balli, i canti, fanno cose zozze. Ma cos'è? Sì, è rivolto comunque, diciamo, all'immigrazione, ai bisogni di sessualità pornografica degli immigrati? Perché... No, è il senso di superamento di un limite, perché se io sono davanti a un computer so di poter fare tutto. Innanzitutto sono consapevole di poter tenere separata la mia vita reale da quella virtuale. Per cui ovviamente anche il fatto che io abbia a disposizione tutte le donne possibili o tutti gli uomini possibili nella vita reale non favorisce né diciamo allontana da questi fenomeni, perché si vive in molti casi la sessualità come composta di due aree non comunicanti. Ma nel momento in cui io so di poter sperimentare di tutto sulla rete e supero ogni volta il limite, ho l'impressione che io anch'io possa contribuire a oltrepassarlo ogni volta, quindi alimento con sempre nuove trasgressioni o sempre nuove manifestazioni del mio eros, della mia pulsione erotica, quel che già c'è. Quindi è un fenomeno che non può aver freno, perché attualmente la rete non ha freno. La cosa importante, questo è un pochino mi sentivo di dirla proprio sentendo le tue testimonianze, è il fatto che sempre più spesso però questa sessualità estrema in tutte le manifestazioni che potremmo elencare sarebbero interminabili, è talvolta la manifestazione di forme di potere, perché così come io posso godere di un rapporto sbilanciato perché ho più potere sessualmente parlando, Allo stesso modo, se io sono davanti a un computer, mi sento potentissimo, sento di poter fare qualunque cosa. Anche in quel momento io sto esercitando il potere, ed è il potere evidentemente che la mia immaginazione mi può garantire. Ci fermiamo un istante. Certo, quando il potere fa venire le vesciche alle mani, anche nelle parti molle, bisogna capire se il rapporto col potere ci fa bene, o come diceva Andreotti, il potere è logora chi non ce l'ha. Ci sentiamo fra un istante. Melog, cronache meridiane. 800 24 0024, un ascoltatore: ci risiamo con le pruderie estive, Nicoletti, ditemi come lo fate, quando lo fate, perché lo fate. La dipendenza sesso è un problema sanitario molto serio. Questa non è una trasmissione sanitaria. Ho dato voce alle persone che hanno espresso le problematiche di compulsione sessuale, perché sono le uniche che hanno telefonato. È un pubblico questo molto scafato quando deve parlare in termini divertenti e goliardici della propria sessualità, ma quando in realtà si pone il problema come un problema maggiore coinvolgimento e maggiore strumentazione culturale, naturalmente si preferisce non parlarne. Però abbiamo ancora in linea il costruttore di aggeggi sadomaso, perché sarà un apporto utile. Però voglio sentire un attimo Nadia Busato, autrice, ricordo, e gioca con me una storia erotica ultra novel, che è la storia di una donna che usa liberamente, piacevolmente e anche in maniera divertente, ma è fortunata perché trova persone complici in questo suo gioco, la sua sessualità. Nadia Busato, ma esiste un consumo di pornografia femminile? Noi abbiamo sentito tempo fa le cosiddette ragazze del porno, un movimento culturale va a fare una pornografia femminile, non sono ancora riuscito a capire qual è la differenza. Hanno fatto un filmetto, fatto un film che è Queen Kong, sì. Esatto, che è questo manifesto della nuova, sì, vabbè, qual è la differenza? Sì. Se io lo vedo la differenza. Un occhio molto, insomma, molto diverso, vabbè, che poi mi faccia capire, perché è situazionale. Credo, ancora capito, l'ho avuto in studio tante volte, non so già farmi capire qual è l'occhio diverso, cosa si vede di diverso, che roba si vede di diverso. Guarda, è, se posso dirlo, un passo indietro, nel senso che proprio storicamente, nel senso che poi le situazioni in cui si consuma la meccanica del rapporto, sì, diciamo così, ha anche una preparazione, una situazione, che è una cosa che oggi al porno manca, per cui in realtà girano soprattutto sulle chat di relazione, quindi WhatsApp, insomma, prima di cioè tutte, quelle parti che normalmente un uomo va avanti veloce, loro invece le fanno vedere. Che non è detto, perché noi siamo una generazione, noi ragazzi del secolo scorso amiamo ancora i porno dove sostanzialmente i protagonisti ci stanno simpatici, e siamo in tanti, perché successi di serial come Fake Taxi, per esempio, che mettono le persone in una situazione e la situazione si sviluppa, quindi si crea la tensione erotica prima della parte della ginnastica, poi, perché quella sono clippine come le clippine degli esercizi. Sì, però è diventato un genere di YouPorn, quelli che lo fanno dentro la macchina, nel taxi. Sì, quello poi è assolutamente finta, sono dei porno attori, però in effetti quella cosa lì ha avuto un grandissimo successo e ha avuto poi una serie di derivazioni contro la tendenza invece che vuole, ad esempio, adesso le porno attrici che non hanno più né nome e cognome, però hanno un elenco di cose che sanno fare, e se lo sanno fare in maniera sempre più estrema, allora magari hanno un successo per poco tempo. Però questa è la prima generazione di porno attori che non avrà un seguito. Vabbè, non avrà, come al solito, è il casting del circo, è sempre questo. Però diciamo l'industria si è proprio completamente trasformata e spersonalizzata. Non ci sono più i nomi, non abbiamo più i volti, non abbiamo più le porno star, non li riconosciamo più. Cioè, conosciamo i pezzi anatomici come se la persona non fosse più parte del corpo, non fosse più proprietaria di quel corpo. Massimo Arcangelo, questo concetto espresso dalla scrittrice, concorda che comunque fa parte della frammentazione necessaria per dare sempre di più degli strumenti di marketing raffinati e quindi fornire quello che le persone, perlomeno per cui hanno un po' di emozione e un po' di curiosità? È molto interessante questo esempio, perché è proprio l'altra faccia della medaglia, perché sull'altra faccia della medaglia cosa c'è? C'è il fatto che invece noi rinunciamo al nostro naturale istinto riproduttivo e facciamo in modo che la nostra ricerca del sesso sia più che altro culturalmente condizionata, cioè ci interessano più gli aspetti intellettuali o estetici o di altro tipo, piuttosto che le pratiche in sé. Allora lì, ma fa parte della nostra evoluzione, secondo lei, professore? Certo, ripeto, è molto interessante l'esempio che ho sentito, perché proprio un tratto di un'evoluzione culturale che è in itinere. Però scusi, è la moderna rappresentazione in un prodotto di quello che nell'immaginario della facezza da bar maschile è sempre stato. Avrà detto anche lei qualche volta, quella lì è un culo che cammina, è esattamente quello. Certamente, però in questo caso noi siamo di fronte alla sostituzione completa del corpo, ecco che dicevo all'inizio che il corpo scompare in tutto questo, perché o lo si distrugge, lo si riduce soltanto a parti che cannibalizzano il tutto, oppure lo si fa scomparire in quello che in una sezione di YouPorn è definito sport cerebrale. Qui, ovviamente, se parliamo di sport cerebrale, siamo di fronte a un fenomeno per il quale l'investitura intellettuale sul sesso oltrepassa il rapporto sessuale. Questo sarà la gioia di tutti quelli che per anni hanno detto che il corpo va macerato, va colpito, perché quello che importa è lo spirito. Faremo sesso col nostro spirito. Viva la faccia. A prossimo.